239. Pagnottelle ripiene. Nelle grandi città, un bravo cuoco è a male agguagliare come un generale d'armata in un vasto campo ben trincerato, con numerose ed agguerrite legioni, ove può far valere tutte le sue prodezze. Le grandi città, oltre all'essere sempre ben provviste d'ogni grazia di Dio, hanno chi pensa a fornirvi anche le più piccole cose, le quali, benché di poca importanza, contribuiscono alla varietà, all'eleganza e alla precisione dei vostri lavori. Così, come vi si trovano bastoncini di pane che, tagliati a fette, si infilano nello spiedo con gli uccelli, vi si fabbricano pagnottelle della grandezza di una mela comune per farle ripiene. Raspatene leggermente la corteccia con la grattugia e fate in mezzo ad ognuna un tassello rotondo della dimensione di una moneta da 10 centesimi. Vuotatele del midollo, lasciando le pareti all'intorno alquanto grossette, bagnatele dentro e fuori con latte bollente e quando saranno discretamente inzuppate, chiudetele col loro tassello, inzuppato anch'esso, immergetele nell'uovo per dorarle e friggetele nel lardo nell'olio. Ma buttatele in padella dalla parte del coperchio perché vi resti aderente. Distaccate dopo con la punta di un temperino il tassello, riempitele di un battuto di carne delicato e ben caldo, richiudetele e mandatele in tavola. Se le fate accuratamente, possono benissimo figurare in qualunque pranzo. I battuti di carne a pezzetti grossi, quanto i ceci, sarà bene farlo con fegatini, petti di pollo, animelle e cose simili tirate col sugo di carne e legate con una presa di farina. Ma ciò che sarebbe indispensabile per rendere il composto più grato sono i tartufi.